Splende su nel cielo, guardando solitaria i pascoli del Far West. È la gran stella del vecchio Texas, la stella dei cowboy. Nell'87, brillando su Fort Joy, guardò venire al mondo il piccolo Lazy Boy. Così comincia la lunga storia di un pallido cowboy. Mamma gli disse vai, ma resta un bravo cowboy. La tromba un giorno ti chiamerà, Gabriele la suonerà. Cowboy, cowboy, cowboy. Lazy vuol dir pigro, ma il nostro Lazy Boy non era certo pigro, lontano da Fort Joy. È un brutto giorno, conobbe Jesse, conobbe la sua colla. Cominciò a sparare ai sassi sulla via, poi preferì i cavalli e infine la ferrovia. Ai passeggeri bucò i sombreri, rubò le pietre. Gli disse vai, ma resta un bravo cowboy. La tromba un giorno ti chiamerà, Gabriele la suonerà. Cowboy, cowboy, cowboy. Tutti gli sceriffi cercavano Lazy Boy. La taglia era grossa, piaceva al sergente Roy. Ma ad una spanna trovò la canna del pallido cowboy. Stava per sparare al nostro Lazy Boy, ma udì dalla missione un coro di Little Boys. Oh Lord, oh glory. Il colpo non partì. Un dì la mamma gli disse vai, ma resta un bravo cowboy. La tromba un giorno ti chiamerà, Gabriele la suonerà. Cowboy, cowboy, cowboy. La lunga storia del nostro Lazy Boy.